al fin mai vinto a cieco lume. L'alma mia non presume di riportar più i soliti trofei. E tu, Orlando, ove sei? Dimmi al fin che l'idolo che adoro è l'amabil Medoro. Io lo vidi ferito, sanarlo procurai, ma le sue piaghe salidando nel suo petto, nel mio cuore, per lui ne aprì amor, una maggiore. Di tanto onor troppo mi scorgo indegno.